musica gagliarda. Ascoltate un tamburello che segna l'accento ogni due movimenti. Così. Così. Musica gagliarda. Gagliarda. Gagliarda. Musica gagliarda. Gagliarda. Gagliarda. È un ritmo di danza e al tempo stesso. Musica gagliarda. Gagliarda. Gagliarda. È un ritmo di danza e al tempo stesso. Musica gagliarda. Quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ascoltiamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ascoltiamo, ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo e il ritmo. Il tempo e il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Musica gagliarda. Gli strumenti a percussione producono suoni mediante percussione su membrane tese sopra una cassa di risonanza. In altri strumenti la corda invece viene pizzicata mediante la percussione di martelletti. È il pianoforte. Vibrazioni della prima corda di un violoncello. Fate però attenzione ai colpi del cassone. Del cassone. Due.